Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Nel mese di gennaio il Veneto ha fatto il punto dell'annata vitivinicola trascorsa e i dati hanno confermato la posizione da primato nazionale. I numeri parlano chiaro. Nonostante le ondate di calore registrate nei mesi estivi, la produzione vinicola veneta si è rivelata decisamente buona sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, visto il calo tutto sommato leggero, viste le premesse appunto del clima, un meno 4%. Sono oltre 77.000 gli ettari di vigneto nella regione, quasi 40.000 i produttori, per circa 11 milioni di quintali di uva raccolta e un totale di 9 milioni di ettolitri di vino, compresi comunque anche mosti e vini acquistati fuori regione. A trainare il comparto è soprattutto l'export, cresciuto di circa il 10% nel 2012, per un risultato atteso a fine anno di circa 1,4 miliardi di euro di fatturato. La Germania è il nostro principale sbocco tra i paesi esteri, anche se crescono gli Stati Uniti e altri paesi come la Gran Bretagna, il Canada e il Nord Europa. La parte del leone della vendemmia è stata fatta dalla provincia di Treviso con circa quasi 5 milioni di quintali di uva raccolta, seguita poi da Verona. Verona e Treviso assieme coprono i tre quarti della produzione complessiva della regione. A farla da padrone sono i vini bianchi, soprattutto il Prosecco, seguito a grande distanza dalle bollicine di Conegliano, Valdobbiadene e il Soave. E poi ci sono i vini rossi, che hanno registrato un leggero calo, e la parte del leone tra i vini rossi la fa il Valpolicella. Proprio con un rappresentante del mondo della Valpolicella vorremmo parlare oggi e commentare questi dati. Abbiamo in linea Daniele Accordini, direttore della cantina Valpolicella Negrar e vicepresidente del consorzio delle cantine della Valpolicella. Benvenuto intanto, spero di aver detto correttamente. L'amarone è il prodotto di punta di questa parte del Veneto, del Veronese, quindi un rosso, mentre poi abbiamo il bianco, le bollicine dall'altra parte del Veneto. Ecco, da almeno una ventina d'anni l'amarone è il prodotto di punta e a fine gennaio c'è sempre il momento della presentazione. Pochi giorni fa è stata presentata l'annata che viene messa in vendita proprio in questi giorni, quella del 2009. Com'è andata questa produzione? Beh, 2009 è stata la vendemmia che è partita, diciamo, leggermente in ritardo grazie a un inverno freddo, ma poi le temperature da febbraio, marzo, aprile, maggio si sono alzate molto velocemente e questo ritardo è stato recuperato. Siamo arrivati alla fioritura in anticipo addirittura rispetto al 2008, per arrivare poi in vendemmia grazie, diciamo, a un giugno, luglio e agosto, direi, con temperature sopra la media, con circa 15 giorni di anticipo come periodo. Però direi che è stata una vendemmia tutto sommato sì calda, ma molto equilibrata, perché le piogge sono cadute abbondanti nella prima fase, ma nella seconda fase molto cadenzate, ed è questo che la vite ha bisogno di acqua in determinati periodi e non in quantità troppo abbondanti. Direi che per noi è stata una vendemmia decisamente di qualità, superiore alla precedente del 2008 in termini di volume, di intensità, di sensazioni. Come note, diciamo, soprattutto al bouquet di ciliegia, di marasca, quindi molto più fresche, e soprattutto al corpo, con note di spezie e una struttura decisamente molto importante. Un vino quindi a nostro avviso da bere già subito, ma che può essere conservato a lungo nel tempo. Parecchi anni. Senti, infatti parliamo di 2009 e non di 2012, di vendemmia 2012, perché l'amarone, prima di poter essere commercializzato come disciplinare, prevede di maturare due anni in botti, non sempre botti, barrique, come è la scelta? Il disciplinare, diciamo, non impone né botti, né barrique, né acciaio, però, diciamo, noi produttori sappiamo che amarone e legno sono un binomio inscindibile. Alcuni produttori portano avanti, forse la maggior parte oggi di produttori, la botte grande, tradizionale, quindi dai 20 ai 50 ettolitri, e un gruppo di produttori, su alcune linee di prodotto, ci sono delle barrique che non sono di origine, diciamo, certo, non fanno parte della nostra tradizione, ma che si sono conquistati uno spazio di mercato molto importante e che, mentre qualche anno fa non sapevamo usarle molto bene, oggi diciamo se usate con attenzione danno dei vini molto ma molto interessanti. Senta, Amarone da una parte e Prosecco dall'altra, ma perché il vino veneto ha questo successo e con prodotti così diametralmente opposti l'uno dall'altro? Beh, insomma, noi veneti non abbiamo certo il clima migliore di tutta Italia, ma certo che l'imprenditorialità che noi veneti dimostriamo in agricoltura e in tutti gli altri settori fa parte del nostro codice genetico. Il cambio di clima è stato anche decisamente positivo. Se ad esempio 20 anni fa era molto fredda, la Valpolicella non riusciva a dare vini di grande complessità e di struttura perché i tannini non riuscivano a maturare, erano amaroni un po' troppo duri, oggi col cambio climatico, con questo riscaldamento termico, è diventato un clima ideale per i vini rossi. Dalla nostra parte, parliamo verso Verona, ma dalla parte del Prosecco sono riusciti a interpretare una tipologia di prodotto che va incontro alla modernità. Oggi vogliamo da una parte vini freschi, fragranti, piacevoli, anche abbastanza economici come il Prosecco, oppure in determinati momenti particolari, dei grandi vini rossi come l'Amarone. E non ci sono solo momenti di quotidianità e non ci sono solamente momenti di esclusività, però il vino è un piacere e noi veneti siamo riusciti in questo modo ad accontentare tutte e due le possibilità, e questo direi che è frutto anche di imprenditorialità, perché questo nostro messaggio l'abbiamo poi portato in giro per il mondo, perché come il Veneto anche il Prosecco, la maggior parte di questo nostro prodotto è destinato per l'80% al mercato estero. Grazie, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Blu Radio Veneto. Bello, bello impossibile, amami ancora, fallo dolcemente, voglio il tuo profumo. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Abbiamo oggi come ospite Daniele Accordini, direttore della cantina Valpolicella Negrar e vicepresidente del consorzio delle cantine della Valpolicella. Stavamo parlando ovviamente di vini e del successo dell'Amarone. Abbiamo visto che è in crescita anche il numero di aziende, però, che hanno molta attenzione al territorio e anche alla qualità del prodotto, non solamente appunto la qualità della bontà, ma anche della qualità dal punto di vista del rispetto ambientale. Molte si stanno convertendo al biologico e la crescita proprio in questi ultimi 2-3 anni è veramente grossa. Mi conferma questo dato e anche il motivo per cui c'è questo cambiamento? Sì. Fino a qualche anno fa parlare di vino biologico sembrava quasi una cosa assurda. Sì, infatti la Valpolicella non è partita certo per primo con questo approccio, diciamo, alla viticoltura biologica. Probabilmente non sono molti gli ettari attualmente in produzione di biologico, ma ce ne sono veramente tanti in conversione. Sappiamo che prima di diventare biologico, un'uva e poi un vino ha bisogno di 3 anni di conversione. Certo. E questo è una sensibilità molto importante che i nostri produttori hanno acquisito per una campagna anche di informazione che è stata svolta sul territorio, perché si è visto che i primi ad essere danneggiati da trattamenti di chimici, di pesticidi, sono proprio i viticoltori, che nel momento in cui entrano a fare i trattamenti, gran parte della residualità viene a carico loro, quindi lo stanno facendo prima per loro e poi per il consumatore finale, perché abbiamo visto che c'è una grande attenzione anche al consumatore di bere prodotti senza chimica. Ma direi che forse più importante in Valpolicella, almeno del biologico, sta diventando il progetto di confusione sessuale, questo sistema di trattamento con Bacillus thuringiensis o con diciamo di confusori sessuali, dove questo impedisce il trattamento chimico e solamente con la confusione degli ormoni che vengono appesi al vigneto si riesce, diciamo, a ovviare dei trattamenti che altrimenti sarebbero stati magari più sicuri, perché hanno un'efficacia più immediata, ma con delle residualità che poi ce le troveremo nell'uva prima e nel vino in seguito. Senta, lei prima parlava, diceva che tra i successi del Prosecco è anche forse il prezzo. Per quanto riguarda l'Amarone, questo è stato uno dei punti forse in discussione, almeno nel recente passato, su quale fosse un prezzo anche corretto. Il costo dell'Amarone da cosa dipende? Dalla lavorazione, dal lungo periodo che deve rimanere prima di essere messo in vendita, o è una questione di mercato semplicemente? L'Amarone è un prodotto innanzitutto esclusivo, perché è tutto integralmente manuale, non si parla di meccanizzazione, perché innanzitutto parliamo di vitigni autoctoni, Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, vitigni che sono nati in questo territorio e solo in Val Pulicella riescono a dare queste caratteristiche importanti. Vitigni che poi vengono raccolti manualmente, posizionati in piccole cassette da 5-6 kg, quindi non c'è possibilità di meccanizzare in alcun modo, per essere poi posti in locali di appassimento fruttai da settembre fino a dicembre mediamente, quindi 90-100 giorni. E in questo periodo cosa succede? Abbiamo nei primi 60 giorni un calo di peso del 25-30%, poi nel secondo periodo, quindi dal 60 al 90 giorni, intervengono dei processi biochimici. La temperatura nel frattempo si è abbassata notevolmente, perché passando da settembre a fine ottobre, primi di novembre, abbiamo già gli ultimi 30 giorni, novembre, dicembre, con temperature che vanno dai più 5 ai 0 gradi, e qui intervengono le botrytis, delle muffe che usano gli zuccheri dell'uva per produrre delle sostanze aromatiche e anche delle sostanze che troviamo sull'aspetto gustativo, e questo ne fanno ottenere un vino unico, esclusivo, che non assomiglia assolutamente al prodotto fresco, diciamo, ottenuto dal Valpolicella, ma che diventa un vino con alta alcolicità, un bellissimo colore, una grande conservabilità, ma di una riconoscibilità, di una unicità che non è così, diciamo, facile, non è possibile replicarlo. Quindi quando si parla di Amarone non è solamente un appassimento, ma è un appassimento lungo nel periodo. E poi la capacità di produttore, diciamo, di fermentare a dicembre o gennaio a basse temperature, una fermentazione che dura dai 30 ai 40 giorni, molto lenta, con produzione di sostanze aromatiche particolari. Ecco, per concludere, un consiglio su chi ha una bottiglia di Amarone o intende acquistarla, con cosa abbinarlo? Berlo da solo o berlo con qualche cibo particolare? Beh, l'Amarone è un vino molto eclettico, può essere, come in passato era un vino da meditazione, ma da bere in particolari momenti, ma però direi che oggi il momento migliore per bere l'Amarone è con un buon secondo piatto, una bella carne alla brace con brasato all'amarone, con dei formaggi stagionati, e questo direi che sono gli abbinamenti più ideali per questo grande vino, che poi si presta anche a piatti molto più leggeri, ma direi che non darei un consiglio specifico, perché essendo un vino che qui in Italia si può abbinare a questi menù che le ho proposto, ma all'estero direi che si abbina, ad esempio in Norvegia con le carni loro, andiamo dal Canada con le loro carni, certo la carne rossa è direi l'abbinamento decisamente. Senta, ma piace importante più agli stranieri che agli italiani e ai veneti per l'Amarone? Sì, direi che l'Amarone sull'80% è destinato all'export, e questo da una parte ci dispiace, perché probabilmente gli italiani non possono godere di questo vino, che direi che è uno dei più grandi a livello nazionale, ma forse l'aspetto di alto valore, che questo arriva al commercio, rende gli italiani in questo momento che stiamo vivendo un po' una difficoltà, e solamente una parte limitata di italiani oggi possono così usufruire di questo prodotto, che direi è un'emozione unica e irripetibile. Ringraziamo Daniele Accordini, passiamo adesso ad alcune notizie e iniziamo parlando di Europa. La Commissione europea ha adottato una strategia marittima per il mare Adriatico e per il mar Ionio, intesa a stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nella regione. La strategia si fonda su 4 pilastri: un'economia blu rafforzata, un ambiente marino più sano, uno spazio marittimo più sicuro e attività di pesca responsabili. Alla base vi sono le iniziative della Commissione denominata Crescita Blu e la dichiarazione di Limassol sull'agenda marina e marittima per la crescita e l'occupazione, recentemente adottata dai ministri dell'Unione Europea. Obiettivo dell'iniziativa è rendere il mare uno spazio centrale di innovazione, opportunità economiche e benessere per tutti i paesi che lo circondano. La Commissione europea ha anche rinnovato la rete degli sportelli informativi Europe Direct per il periodo 2013-2017 e tra i 500 centri selezionati e cofinanziati nei 27 stati aderenti c'è anche quello di Veneto Agricoltura. Questo sportello continuerà quindi ad operare per i prossimi 5 anni con l'obiettivo di spiegare ai cittadini e alle imprese, comprese quelle agricole e rurali, quali sono le ripercussioni delle politiche europee a livello locale. Tra i compiti di Europe Direct Veneto vi è quello di sensibilizzare i cittadini in merito alle elezioni del Parlamento europeo previste nel 2014 e contribuire al dibattito sul futuro dell'Europa che a partire dal 1 luglio di quest'anno vedrà l'ingresso anche della Croazia. Ford, Mercedes, Renault e Nissan hanno annunciato un accordo di collaborazione sulla tecnologia a celle combustibili allo scopo di mettere in commercio nel 2017 vetture a idrogeno a prezzi di mercato. Attualmente l'idrogeno sembra essere la migliore soluzione ai problemi dell'inquinamento e della dipendenza dal petrolio, perché dal tubo di scarico delle auto potrebbe uscire soltanto vapore acqueo. Resta però una grande incognita il modo in cui deve essere prodotto e la rete di rifornimento. Appuntamento quindi tra 4 anni per sapere se questa grande alleanza di case costruttrici consegnerà al mondo l'auto ecologica del futuro. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.